Sai, ti penso tanto, lo sai, ti sento tanto e di più. Ti ho aspettato tanto, lo sai, ti penso tanto. Dentro. In quelle nebbie disperse dal vento, tra labirinti di cristalli blu, appare il viso di chi se ne è andato e non torna più. Sai, ti penso tanto, lo sai, ti sento tanto. Resta per sempre dentro agli occhi, negli orizzonti e nei tramonti che vorrei. Tempo che non invecchia una fotografia, da sempre storie di gente uguale a noi.